Il secondo album è sempre più difficile nella carriera di un artista. Il secondo album è sempre più difficile. Il secondo album è sempre più difficile nella carriera di un artista. Il secondo album è sempre più difficile. Italiani brava gente, italiani dal cuore d'oro. L'Italia è una repubblica fondata sul lavoro di santi, di poeti, di mafiosi, navigatori. Luogo comune, la trasmissione radiofonica che analizza luoghi comuni, mozzi, aneddoti e modi di dire per poterli confermare o smentire con l'aiuto di un ospite. In studio a tenervi compagnia per la prossima mezz'ora Valentino De Luca. Ricordiamo di cercarci su Facebook come Luogo Comune, il logo è quello di Radio Città Aperta, o su Twitter digitando @luogoc, oppure scrivete una bella mail con parere, suggerimento o quant'altro a luogocomune.radio@gmail.com. Il luogo comune che tratteremo oggi è sono stati gli zingari. Grande scalpore addestrato in tutta Italia un cartello apparso all'ingresso di una panetteria nel quartiere Tuscolano a Roma qualche tempo fa, che recitava: è severamente vietato l'ingresso agli zingari anche davanti al negozio. Subito sono fioccate le proteste da parte di numerosi cittadini, finché non è intervenuto proprio l'associazione 21 luglio, che ha formalmente liquidato la panetteria per incitamento al razzismo. Il cartello è stato rimosso, ma le polemiche ogni volta che si parla del popolo rom non sembrano, al contrario, placarsi mai. Però da dove vengono i rom che vediamo nelle nostre città? Se sono un popolo nomade, perché risiedono stabilmente nei campi che spesso si trovano invece in periferia? È vero che nessuno di loro lavora, che non mandano i figli a scuola, che sono incompatibili con il nostro stile di vita e tutte le altre chiacchiere da bar, diciamo, che si sentono appunto in giro parlando con le persone, tanti luoghi comuni di cui tratta la nostra trasmissione, appunto. Per poter capire meglio un pochettino questa realtà che ci è vicina fisicamente ma spesso ci è distante perché non la conosciamo, non abbiamo mai approfondito l'argomento, ne parliamo con Carlo Stasolla, ovvero presidente dell'associazione 21 luglio, che monitora e denuncia ogni forma di discriminazione, segregazione e violazione dei diritti umani causata da politiche nazionali e locali nei confronti del popolo rom. Dottor Stasolla, buongiorno. Buongiorno a voi e grazie per lo spazio e l'accoglienza che ci date. Dottor Stasolla, vediamo di fare un pochino di chiarezza. Quelli che noi chiamiamo zingari e vediamo aggirarsi nelle nostre città, ma chi sono in realtà e da dove vengono? Beh, quelli che noi erroneamente chiamiamo zingari sono le comunità rom e sinte provenienti in Europa occidentale da più di 1000 anni, provenienti dall'India. Un popolo in realtà non nomade, sedentario, ma reso nomade dalle tante persecuzioni subite dall'arrivo nel nostro continente. Un popolo che quindi si è sparso dal 1000 d.C. nel nostro paese con un'azione attenaglia, cioè nell'Italia del Sud attraverso migrazioni provenienti dalla Grecia e nell'Italia del Nord attraverso migrazioni provenienti dalla Germania. Le migrazioni in Italia sono state differenti, la più recente è quella che riguarda i rom rumeni che dopo la caduta del muro di Berlino, quindi la caduta dei regimi comunisti, si sono riversati, non certo in massa perché i numeri non sono di una massa di popolo che si è riversata nel nostro paese, ma in numero molto limitato, a partire dal 2000 in poi. Quindi diciamo vengono da molto lontano e sono presenti, mi pare di capire, pressappoco in tutti i paesi, per parlare di una realtà più vicina a noi, in tutti i paesi d'Europa. Anche sì, sono la più grande minoranza europea, il numero si attesta intorno ai 12 milioni di abitanti, con numeri molto alti in alcuni paesi, pensiamo alla Romania dove sono circa 2 milioni, pensiamo alla Spagna dove sono 800.000, in Italia i numeri sono molto molto più bassi, si parla di circa 170-180.000 rom corrispondenti allo 0,23% sulla popolazione maggioritaria. Pensiamo ad altre percentuali come per esempio in Macedonia o in Slovacchia dove raggiungono anche il 10%, o in Bulgaria dove si parla di una presenza dei rom di circa il 25%. In Italia quindi la presenza è molto molto bassa, molto più bassa della Francia, molto più bassa della Spagna. una presenza che però è giudicata ingombrante perché molto visibile e perché disturba molto quella che è il nostro modo di vedere, il nostro modo di pensare. Lei prima ha detto che erroneamente, insomma, si usa il termine zingari, parliamo di Roma, ma lei per caso sa, facendo un pochino di etimologia, da dove vengono queste parole, insomma, che usiamo, e perché una è sbagliata e l'altra è corretta? Beh, dunque, tendenzialmente è sbagliata perché ogni popolo deve essere chiamato come lui chiama se stesso. A noi non ci piace se veniamo chiamati come mafiosi, per esempio, o spaghettari. Noi siamo italiani e vogliamo che gli altri ci chiamino italiani. I Rom sono un popolo che si denomina se stesso Rom e quindi va chiamato come lui chiama se stesso. Il termine zingaro è un termine offensivo, nasce nel 400 quando i Rom, alcune popolazioni Rom, vengono confuse con gli Atsiganoi, che erano degli eretici. Il termine Atsiganoi in greco significa intoccabile. Quindi ecco, in questa confusione con le comunità degli Atsiganoi e quindi questa visione di Rom come popolazione intoccabile in quanto impura, vengono e iniziano a essere denominati zingari a partire dal 500. Questa dicitura è poi rimasta fino ad oggi, ma è un termine, ricordiamo, offensivo proprio perché è un eteronimo. A livello istituzionale invece i Rom vengono denominati nomadi, anche questo è un termine sbagliato, è molto sbagliato perché dietro il termine nomade si indica il fatto che si tratta di popolazioni che non vogliono e non sanno integrarsi, che non vogliono e non sanno vivere in civili abitazioni. Ma quindi il termine nomade è, diciamo, un sinonimo infatti della parola Rom o zingaro, in senso, ovviamente abbiamo appena saputo, abbiamo appena imparato, dispregiativo appunto, è nomade. E una domanda che si fa spesso, appunto, un altro luogo comune per eccellenza è: ma se sono nomadi, poi perché risiedono invece stabilmente nei campi che spesso sono attrezzati nelle nostre periferie? Allora, innanzitutto i Rom non sono nomadi, non vanno chiamati nomadi perché il termine nomade è un aggettivo e nessuna persona e nessun popolo può essere chiamato con un aggettivo. I Rom sono una popolazione sedentaria che è stata resa nomade dalle persecuzioni. L'Italia è l'unico paese in Europa denominato il paese dei campi, cioè che ha deciso che i Rom, in quanto nomadi, non sono capaci a vivere nelle case, quindi per loro vanno costruiti i campi. I campi sono qualcosa di istituzionale che a partire dagli anni 90 sono stati creati in Italia, nella città di Roma il primo campo è del 94, il campo di Via Salviati, che parte da un'errata valutazione, da una lettura sbagliata dal punto di vista culturale. E quindi i campi vengono giustificati con un presunto nomadismo, ma secondo i dati del Ministero del Lavoro solo il 3% dei Rom è in realtà nomade. E sicuramente, questa è una battuta mia, un imprenditore italiano fa molti più chilometri di tutti i Rom italiani messi insieme. Quindi ecco, è sbagliato parlare nomade, è sbagliato parlare di zingari, è corretto dire comunità Rom e sinte. Ma io immagino che lei, anche tutti i suoi collaboratori, insomma, anche gli altri volontari dell'associazione 21 luglio, abbiate, insomma, siete a stretto contatto, insomma, con questa realtà dei campi. Ma come si vive nei campi? Come sono attrezzati? Come sono organizzati? Le realtà sono diverse tra città e città. La città modello, giudicata modello, è la città di Roma, che più delle altre ha investito risorse economiche umane sul sistema campi. I campi non sono altro che dei ghetti etnici, sono dei ghetti perché sono luoghi costruiti per tenere al margine una città, per concentrarla e ammassarla in uno spazio chiuso. Sono etnici perché assegnati su base etnica. Anche questa è una cosa totalmente assurda. Proviamo a pensare se il Comune di Roma decidesse di rinchiudere in un quartiere, per esempio, tutti gli ebrei o tutti i francesi o tutti gli argentini della città di Roma su base etnica. È qualcosa di folle. Qualcosa di folle che però a Roma, per esempio, sui Rom viene fatto in maniera sistematica e istituzionale a partire dagli anni 90. Il campo nomadi quindi è un enclave dove i diritti sono violati, un enclave istituzionali, è un ghetto costruito, realizzato, pensato e gestito su base etnica. E dentro, una volta che appunto hanno trovato spazio agli ospiti di questo campo, i Rom appunto, dentro il campo stesso, come si sono organizzati? Come si sviluppa la loro... Beh, di fatto il campo è il non luogo per eccellenza, è il luogo dove il tempo è fermo. Il campo è il ghetto dove vivono, nascono e si innescono tutte le dinamiche da ghetto. Tutto ciò che accade, cioè non possiamo chiudere gli occhi. È vero che nei campi c'è criminalità, è vero che nei campi c'è marginalità, è vero che nei margini c'è esclusione, ci sono dipendenze, ma è anche vero che questo non dipende dal fatto che ci vivono i Rom, dipende dal fatto che queste sono tutte le dinamiche innescate dal ghetto. Il ghetto quindi è il luogo che deumanizza l'essere umano, il luogo dove diciamo il peggio che c'è nella persona esce fuori, perché è il luogo del confinamento. L'immagine del campo è molto vicina all'immagine di un giardino, cioè, mi spiego, l'inclusione dei Rom nella città di Roma sta come un cane è incluso in una famiglia, cioè è messo e relegato nel giardino, quello è il suo spazio, uno spazio quindi che non gli consente di entrare nella casa. Il campo quindi è il luogo che non consente a Rom e a qualsiasi cittadino di entrare nella città, di sentirsi pienamente cittadino di una città nei diritti e nei doveri. Sassolla, io diciamo per preparare questa puntata sul luogo comune, che è uno dei luoghi comuni, almeno per quanto riguarda la base, appunto, come ricordava lei, etnica, per eccellenza, poi ci sono tanti altri luoghi comuni che dicono che i francesi sono così, gli inglesi così, anche all'interno dell'Italia i napoletani sono così, i veneti, i milanesi, eccetera, eccetera, eccetera. Però il luogo comune principale, appunto, sul popolo Rom, sentendone parlare, vedendo, insomma, io penso che anche lei abbia Facebook, abbia un account Facebook, glielo chiedo, lei ha un account Facebook? Sì, ce l'ho e le assicuro che di fronte a certi post si riempie di... Infatti, lei vede ogni tanto, no? Poi ci sono dei giornali che sono su Facebook, vanno molto forte, i cui, adesso insomma, non voglio fare nomi, ma i cui commentatori a ogni cosa, sia che ne so, incidente sulla Pontina, oppure è affogato un bambino nel Mediterraneo a largo di Fregene, oppure ritardi nei lavori della metro, c'è sempre tra i commenti qualcuno che tira in mezzo i Rom, il problema dei Rom che creano degrado, che è un po', diventa un po', no, il capro espiatorio di tutto quanto. Insomma, in mezzo a questa marea di luoghi comuni, uno principale sul popolo Rom è che vivono esclusivamente di furti e criminalità, che sono reati avvertiti come particolarmente odiosi dalla popolazione, perché danneggiano, diciamo, in maniera diretta l'uomo di strada, l'uomo comune, appunto. Da qui la reazione dell'opinione pubblica, come spiegavo prima, e spesso anche dei media, che demonizza e vorrebbe drastiche soluzioni per affrontare il problema. Allora, dottore, io le chiedo di fare un pochino di chiarezza e, al netto di buonismi o d'altra parte esagerazioni, di tracciarci un pochino un quadro del rapporto, appunto, tra la popolazione Rom e la criminalità, per dare un reale poi quadro, come dicevo, del fenomeno. Sì, come ho già premesso in precedenza, è chiaro che il ghetto crea dinamiche appunto da ghetto che sono dinamiche criminali. Non possiamo nasconderci il fatto che è molto alto il tasso di criminalità presente negli insediamenti formali, proprio perché si vive in queste dimensioni, ma non perché si è Rom. Questo fenomeno è percepito come forte, questo perché i Rom hanno una funzione ben precisa nell'ambito cittadino, cioè quella, come ha detto lei, di essere dei capi espiatori, per cui si ha sempre qualcuno su cui buttare la colpa. Certe volte però finisce per esagerarsi. Le faccio un esempio: l'idea comune che i Rom, ovvero, diciamolo anche come lo dice la gente comune, lo zingaro ruba i bambini. Ecco, questo qua è un luogo comune diffuso, tanti sono convinti di questo, anche questo qua si legge nei commenti, nei giornali. A questo proposito dobbiamo però rifarci a dei dati scientifici, e qui voglio nominare una ricerca condotta dall'Università di Verona che ha analizzato dall'85 al 2005 tutti i casi di presunta o narrata sui giornali sottrazione dei minori da parte di donne Rom, e la ricerca dell'Università di Verona arriva a confermare e a dire che in Italia nei 20 anni compresi tra l'85 e il 2005 non c'è stato alcun caso di una donna condannata, una donna Rom, per aver sottratto un minore non Rom. Quindi da qui si evince come non è vero che, come dicono i giornali, gli zingari rubano i bambini. Questo per dare appunto un caso molto chiaro di come poi, quando guardiamo la realtà, una realtà che non passa attraverso l'immaginario o quelle che sono le paure collettive metropolitane, la realtà è ben diversa. Quindi ecco, il fenomeno c'è, ma c'è laddove c'è marginalità, laddove c'è esclusione provocata più delle volte dall'istituzione, quindi non possiamo nasconderci, c'è il fenomeno, che però andrebbe rimosso non estirpando l'etnia rom o cacciandola chissà dove, ma cercando di lavorare su quelle che sono le cause sociali che tra i rom, ma anche tra altre categorie del sottoproletariato urbano, si riscontrano e che vanno assolutamente rimosse. Ma invece per quanto riguarda il rapporto tra il popolo rom e il mondo del lavoro, lei giustamente dice dove c'è marginalità è facile, e ghettizzazione, è facile creare appunto fenomeni di criminalità, soprattutto microcriminalità, che come ricordavo prima è quella avvertita come più odiosa dal luogo comune, dalla persona comune, e quindi ecco il nascere di tutti questi commenti di questo astio, eccetera eccetera. Invertendo invece questo luogo comune, c'è una diciamo possibilità di inserimento, per esempio sociale, di inserimento nel mondo del lavoro? In particolar modo mi interessa questa tematica, cioè il rapporto, certo, guardi, economico, parenti, in un certo senso, certo, però guardi, tutto dipende dalle politiche sociali, non dipende poi dalle persone. Le persone che oggi vivono nei nostri campi romani, nel degrado, nella povertà, nella miseria, nella criminalità anche, hanno i loro stretti parenti che vivono per esempio a Malaga, a Siviglia, a Düsseldorf, a Dortmund, e sono parenti che sono perfettamente inseriti, che sono imprenditori, che hanno case, che lavorano regolarmente da anni, che hanno pensioni. Ecco, allora questo vuol dire che quando alla persona, rom o non rom, vengono date, offerte, possibilità di inclusione, anche e soprattutto dal punto di vista lavorativo, le persone accolgono questo, ma le offerte, le possibilità devono essere date a parità di trattamento con tutti. E qui si ritorna al discorso del campo. Il campo è il luogo del non luogo, della non inclusione, dell'esclusione, un luogo quindi che impedisce poi, ostacola fortemente la possibilità di inclusione anche dal punto di vista lavorativo, e questo poi crea una serie di conseguenze che abbiamo appunto appena detto, a cui poi l'amministrazione e le forze dell'ordine devono far fronte con grosse difficoltà, con grosso dispendio economico e senza poi una reale inclusione delle persone. Ma a lei, dottor Sasolla, avrebbe qualche, anche se non mi piace molto il termine, qualche ricetta, qualche soluzione, insomma, pratica, da dove si potrebbe cominciare? Perché sembra, quando si parla appunto del popolo rom e dei problemi annessi alla criminalità, ai campi, all'emarginazione, alla percezione nella persona di strada appunto del fenomeno dei cosiddetti, sbagliando, zingari, sembra sempre che è talmente un mare magnum che alla fine, vabbè, so quei problemi talmente grossi che non si comincia mai. Invece cerchiamo di porre delle basi. Cioè, lei per esempio, che insomma immagino da anni studi e sia dentro a questo fenomeno, che cosa proporrebbe? Guarda, innanzitutto il fenomeno è percepito come grande, ma non lo è. A Roma ci sono solamente 8.000 rom presenti negli insediamenti, un numero che su una città di quasi 3 milioni di abitanti è lo 0,2%, quindi estremamente piccolo. Qui parliamo di 1.200 famiglie. Noi abbiamo fatto una serie di ricerche, di documenti, abbiamo prodotto documentazione di buone pratiche. Per esempio, abbiamo detto nell'ultimo nostro rapporto come includere costa 5 volte meno che discriminare, prendendo il caso della città di Messina, che l'anno scorso, nel 2013, ha chiuso un campo con progetti di autocostruzione, cioè formando i rom a costruire le case, dando loro il materiale e dando la possibilità di ristrutturare edifici abbandonati. A Roma faccio presente che per esempio ci sono 1200 ettari di edifici abbandonati. Ecco, quindi la soluzione è molto molto semplice e fattibile, ci vuole la volontà politica, e la soluzione non è altro che riconvertire una parte, una minima parte del denaro che viene speso per l'esclusione, perché non dimentichiamo che i campi rom hanno dei costi sociali altissimi, per l'inclusione. Includere costa 5 volte che discriminare, lo ripeto. Se il comune vuole, se l'amministrazione vuole, bisogna iniziare a invertire la tendenza, a smetterla di continuare a foraggiare associazioni e cooperative che vivono sui campi e sulla pelle dei rom, e iniziare a prevedere reali progetti di inclusione. Esistono tantissime buone pratiche, non solo in Europa ma anche in Italia, di autocostruzione di edifici su terreni dismessi. Tante soluzioni esistono, l'importante è la volontà politica, ci vuole solo quella. Sasolla, ma perché la sua associazione si chiama 21 luglio? L'associazione 21 luglio nasce da un fatto estremamente grave, cioè la sottrazione di un minore da parte dell'autorità, quindi il tribunale dei minorenni, che ha tolto un minore alla sua famiglia per darlo in adozione. Questo perché il campo, non l'abbiamo detto, diventano poi bacini da cui attingere bambini per l'adozione. Un'altra nostra ricerca recente ha dimostrato come un bambino rom a Roma ha 17 possibilità in più di essere adottato da un bambino non rom. Quindi l'associazione 21 luglio nasce per ricordare quel fatto e per lottare quindi contro ogni forma di ingiustizia e di discriminazione istituzionale. Sassolla, ma lei prima appunto giustamente ricordava ha ricordato adesso il 21 luglio perché si chiama così e quindi coinvolge anche le dinamiche con i bambini che ha citato anche prima durante il nostro discorso. Una domanda che le volevo fare era appunto questo: una volta fugato ogni dubbio sull'altro luogo comune sui rom, ovvero gli zingari rubano i bambini, spesso però vediamo le donne rom esercitare appunto l'elemosina accompagnata da bambini piccoli. Che rapporto c'è però tra il popolo rom e la scuola dell'obbligo? In che percentuale i bimbi rom vanno a scuola? E quando frequentano, come vengono percepiti dagli altri bambini e dai genitori degli altri bambini? Guardi, anche qui dobbiamo assumere come riferimento il dato di altri paesi europei, perché noi in Germania, in Turchia, in Spagna abbiamo rom che siedono sulle cattedre universitarie. Quindi ecco, quando l'occasione viene data, quando c'è la possibilità di inclusione, anche il bambino rom, anche la famiglia rom va verso la scuola. Il rapporto della scuola con i rom è lo stesso rapporto che c'è tra famiglie povere del sottoproletariato urbano nostro degli anni 50 o del meridione italiano o di sacche di povertà che tuttora perdurano nel sud dell'Europa con le istituzioni e quindi con la scuola. Laddove c'è povertà, laddove c'è miseria, laddove non ci sono occasioni, è chiaro che il rapporto con l'istituzione scuola è conflittuale, è chiaro che il bambino viene visto come una forza lavoro. Ma questo non riguarda la cultura rom, questo riguarda ogni categoria povera e marginale. Chiaramente qui non parliamo e non andiamo a parlare appunto di poi fenomeni che però sono molto marginali oggettivamente legati alla criminalità. Il più delle volte la donna rom porta il suo figlio a elemosinare perché non ha dove lasciarlo. E non dimentichiamo, e questa è una mia provocazione, che mi sembra strano che noi che abbiamo nominato santi tanti questuanti del 500, del 600, noi che abbiamo scritto i fioretti di San Francesco esaltando la sua umiltà, lui che elemosinava per i suoi confratelli, poi ci indigniamo quando vediamo una donna rom che non ha nulla e che elemosina per suo figlio. Oppure noi che assistiamo in televisione a campagne di raccolta fondi da parte di importanti organizzazioni umanitarie che presentano bambini che non sono loro in una situazione pessima di salute, poi ci indigniamo quando una donna rom elemosina o chiede qualcosa con suo figlio in braccio. Quindi c'è anche da questo punto di vista molta ipocrisia da parte nostra, che amiamo mettere e girare il volto dall'altra parte e non guardare a fondo e vedere la realtà. Sassolla, visto che ne stiamo parlando di donne rom, ma nella cultura rom come è vista la donna? Beh, guardi, non esiste una cultura rom, esistono tanti gruppi rom e tanti sottogruppi e quindi varia da gruppo a gruppo, da situazione a situazione. Ci sono dei gruppi dove patriarcali, dove quindi la figura dell'uomo è predominante, e ci sono gruppi invece in cui accade esattamente il contrario, dove soprattutto la donna anziana ha un valore e quindi merita un rispetto tutto suo all'interno della famiglia. Quindi da questo punto di vista la cultura rom non è un unico blocco, un blocco granitico, ma in realtà poi si dipana in tante variabili. A questo proposito mi permetto di invitare tutti quanti all'evento che organizziamo il 16, Memorie di culture itineranti, proprio sulla storia del popolo rom, il 16 maggio a Piazza Navona, in cui parleranno uomini e donne rom che racconteranno la loro cultura, il loro modo e la loro espressione con cui vivono la dimensione dell'essere rom oggi nel nostro paese. Lei quanta fatica fa a parlare, diciamo, di rom senza essere investito subito da uno tsunami di improperi o subito frasi tipo no vabbè ma perché rubano, perché non si sanno integrare, perché non vogliono lavorare, perché qua, perché là, eccetera eccetera eccetera. Beh, nel corso degli anni, la seconda parte della domanda è: nel corso degli anni questa fatica sta aumentando o un pochino sta diminuendo perché magari qualcuno inizia a capire, diciamo, un po' più la complessità del fenomeno? No, la fatica soggettiva non c'è, perché diciamo, nell'esprimere le proprie idee, le proprie convinzioni con serenità e pacatezza non c'è fatica. C'è più che altro un'amarezza nel constatare come talvolta il pregiudizio è così forte che crea proprio una scorsa di incomprensione e di incomunicabilità. Ecco, lì allora c'è l'amarezza, che però è un'amarezza che spinge ad andare avanti a combattere questa battaglia, che non è una battaglia per i Rom. Se i diritti dei Rom nella città di Roma venissero rispettati, vuol dire che tutti i diritti delle persone che vivono a Roma sono rispettati. Da questo punto di vista i Rom sono la cartina di tornasole della qualità di vita di una città. Laddove i diritti dei Rom non sono rispettati, laddove continuano a crearsi campi nomadi, laddove continuano a realizzarsi sgomberi forzati, siamo ben certi che i diritti di tutti sono a rischio e non sono rispettati. Quindi la nostra battaglia è una battaglia di civiltà, non per i Rom, non solamente a favore di Rom, ma a favore di ogni cittadino che vive nella nostra città. Ma tra le risposte che le hanno mai dato, argomentando, parlando, discutendo, non ha mai sentito diciamo, la frase che i Rom sono amati, diciamo, solo da chi non li ha sotto casa e che la loro difesa d'ufficio sia affidata prevalentemente a diciamo, anime buone o peggio, insomma, a radical chic, che non avendoci lì sotto casa, appunto, è facile che pontificano. Io non ho i Rom sotto casa, perché ce li ho in casa, avendo sposato una donna Rom e avendo figli come figli Rom. Quindi da questo punto di vista, diciamo, sorrido davanti all'affermazione di chi mi dice che non hai i Rom sotto casa. E posso assicurare che averli dentro casa è molto pesante, ma non perché Rom, ma perché moglie o perché figli, e quindi c'è la fatica del quotidiano di essere un padre, di essere un bravo marito. Eh beh, quello penso proprio sia indipendente, diciamo. Assolutamente dove, sì. Da dove venga tua moglie, tuo figlio o tuo marito, insomma. Assolutamente. Comunque. Sì. Dottor Stasolla, io la ringrazio per essere stato nostro ospite, per aver fatto chiarezza diciamo, per quanto riguarda un tema sicuramente molto molto sentito dalla popolazione. Sono d'accordo. Sì, mi permetto solamente, se mi dà 15 secondi, di invitare tutti quanti. Il 16 maggio a Piazza Navona, Sala Cervantes, avremo tante testimonianze di persone Rom che fanno teatro, che fanno musica, che sono registi, che sono pittori, che raccontano come con l'arte è possibile oggi essere Rom, ma anche essere cittadini pienamente italiani, pienamente romani. Quindi Rom artisti, insomma, quindi una visione, diciamo, sicuramente meno consueta rispetto al nostro quotidiano. Un'altra maniera, mi lasci dire se ho ben capito, quindi per uscire anche dai luoghi comuni, insomma. Esattamente, esattamente. Dottor Stasolla, io la ringrazio per essere stato nostro ospite. Ringrazio a voi e buona continuazione. E ringraziando appunto il dottor Stasolla per essere stato nostro ospite, siamo giunti alla conclusione di questa puntata di Luogo Comune. E invitiamo tutti i nostri ascoltatori a visitare il sito www.radiocittàaperta.it per essere sempre aggiornati su tutte le iniziative della radio e per sostenere Non Esistono Più Le Mezze Stazioni, la campagna di raccolta fondi a favore di questa bella realtà romana. Diciamo che la puntata di oggi, appunto, sul mondo Rom, diciamo, è un argomento questo che sicuramente fa sempre discutere. Gli argomenti, insomma, a favore e contro già li conosciamo. Spesso noi, immagino anche voi radioascoltatori, vi sarete trovati in mezzo a queste discussioni. Mi colpisce sempre l'aforisma, insomma, la poesia di Bertolt Brecht. Alcuni di voi sicuramente la ricorderanno. Prima di tutto vennero a prendere gli zingari e fui contento perché rubacchiavano. Poi vennero a prendere gli ebrei e stetti zitto perché mi stavano antipatici. Poi vennero a prendere gli omosessuali e fui sollevato perché mi erano fastidiosi. Poi vennero a prendere i comunisti ed io non dissi niente perché non ero comunista. Un giorno vennero a prendere me e non c'era rimasto nessuno a protestare. Ecco, io quando diciamo sento un po' gli argomenti contro un determinato, un po' aprioristici, no? Senza vedere la realtà oggettiva, ma solo perché è così, insomma, quindi il piano del luogo comune, mi viene sempre in mente questa poesia. Detto questo, bisogna sempre guardare la realtà e i fatti così come sono, non diciamo disprezzandoci, mancherebbe, non beatificando o santificando a priori, sempre partire dall'analisi dei fatti reali. Questo secondo me è la miglior forma, in un certo senso anche di giornalismo. Se vi piace questa trasmissione, Facebook è il luogo dove poter interagire, mi trovate come Luogo Comune, il logo è quello di Radio Città Aperta. Su Twitter invece, se vi piace cinguettare, @luogoc, oppure se siete un po' grafomani, luogocomune.radio@gmail.com. Da Luogo Comune è tutto, l'appuntamento è per venerdì prossimo alle ore 13:30, sempre sugli 88.9 di Radio Città Aperta. Da Valentino De Luca un buon venerdì e soprattutto un bel weekend. Ciao!